si chiama Sounds Like Melody. Mamma che bella sta canzone, indietro nel tempo, credo l'ultimo periodo degli anni 80. Alphaville. Ehi, buonasera, gomba! Buonasera a tutti, non ascoltatori! Ha visto che già comincia a essere un po' più professionista, Rambo, bravo! Buonasera a tutti, radioascoltatori. Bravo Rambo, così si fa. Bravissimo. Buonasera, ma ieri sera c'è stato spettacolo, spettacolo. Al Juventus Stadium, spettacolo. Dobbiamo dire. E Del Piero, oh, è fantastico. E la palla come girava, bella, Zusette. Rambo, hai perso già i 10 punti che avevi guadagnato all'inizio. Allora, 10 punti, no, 15 cavalli. Scusa, tu arrivi, buonasera radioascoltatori, eccetera, eccetera, e poi cominci a parlarmi nuovamente in siciliano. Questo in italiano lo puoi dire. Ma poi dobbiamo parlare in italiano, te l'ho detto mille volte, anzi forse più di mille volte. La gente ci ascolta da tutto il mondo, c'è gente che ci ascolta dal nord Italia, dal centro e nord Italia, anche dal sud Italia, però magari non capiscono il siciliano. Quindi noi che dobbiamo fare? Quali bravi? Dico, a parte bravi, che dobbiamo fare? Parlare, diciamo, giusto in italiano. Oh, e allora, cosa è successo ieri a Torino? È finito 3-0 per la Juve. Però tu ci hai visto bene, ieri me l'avevo detto che l'avremmo massacrati. Quando parlo io, bello mio, io dico la parola. Scusa, allora sei o no il mio commentatore ufficiale? Sì. Voglio dire, va. Te avevo detto 3-1 finiva, però. Vabbè, se finiva 3-1 non c'era niente da dire. No, nessuno poteva dire niente, mamma mia, ma soprattutto è venuto giù lo stadio quando ieri Del Piero ha fatto quel gol alla Del Piero, perché ogni tanto era da quando? Da maggio dell'anno. Roberto, posso dire una cosa? Sì, se abbassi la radio, sì. Quel tiro che ha fatto Del Piero io le paravo di testa quando ero più giovane. Rambo, smetti. Sì. Era sotto lì, ha tolto le ragnatele dall'incrocio, Rambo. Una volta ho parato un ricaccio di regola all'incrocio dei pari. Ma chi, tu? Sì, quando ero più giovane, andavo a scuola. Tu hai parato un calcio di rigore? Sullo 0-0. Sullo 0-0, quindi sei stato determinante sull'esito del. Ma io sono stato fantastico. Aspetta, però tu devi metterti d'accordo con te stesso e poi noi. Allora, tu hai detto che sei un grande attaccante, che facevi tanti gol. Sì, quando facevo tutto. Ora mi dici che giochi anche in porta. Cioè, scusa, mettiti. No, ora non gioco più ormai. Scappo un muro ormai. Ormai hai aperto le scarpette al chiodo. Roberto, 37 anni, dove che 20 anni? 37 anni! Ieri Del Piero, alla vera età di 37 anni, ha fatto quel gol. Ma 37 anni, però noi siamo lo stesso robusto, no? Il fisico, effettivamente, che ti frega un attimino, è il fisico. Devo dimagrire, ho che 10 kg. Magari. Magari, e poi sono una potenza. Bravo, bravo. E allora stasera giocherà l'Inter con il Napoli, giusto? Duro, non sappiamo come finire. Là vedremo come andrà a finire. Poi c'è questo anticipo tra chi era? Chievo e Siena, se non sbaglio. Inter-Napoli ci sarà qualche sorpresa stasera, secondo me. Ah sì? Sì, ci manca Pazzini. Pazzini, poi manca anche Nakatomo. Secondo me stasera ci sarà qualche sorpresa. Sai la cosa più bella che mi sono sentito dire oggi appena ho fatto il primo giro in paese? Sì. Incontrando, perché poi tu devi sapere che io ho più amici interisti che juventini. C'è una cosa strana. Cosa hanno detto? Mi hanno detto: Robby, cominciamo ad avere paura della Juve. Questa è una cosa bellissima, Rambo. Hai visto come anche il bambino, il ragazzino, la marrone, hai visto come gioca bene? Sì. Mi piace quando ha fatto il primo gol, è fortissimo. Bravo. Già l'aveva dimostrato domenica, anzi sabato, nell'anticipo con l'Atalanta, aveva dato quel bel pallone a Giaccherini, che poi hanno fatto la stessa cosa. Marrone, Giaccherini, gol dell'1-0. Dalla seconda linea, come diceva Luis Enrique, l'allenatore della Roma. Va bene, quindi siamo in semifinale, Rambo, questa è una cosa importante. E allora, se la prossima partita ci sarà fra Milan e Lazio, chi passa ci incontrerà la Juventus. Ma io, guarda, a questo punto non ho più paura di nessuno, ormai. Veloce, ormai ce la giocheremo fino alla morte. Alla fine ce la giocheremo. Antonio Conte ha dato un timbro alla sua squadra, ha dato un carattere che mancava, il carattere che aveva lui quando giocava a calcio, no? Un combattente, ti ricordi, il capitano? Ma secondo me sarà semifinale Milan-Juventus. Semifinale Milan-Juventus, vedremo. Sì. Vedremo. Va bene, Rambo! Forza sempre Juve. Sì, noi ci sentiamo domani. Sì, metti la musica, quale sei tu, sai quale. Certo, è certo, basta che tu poi mi balli dall'altro lato. Miche, mette mica le cose. A domani. L'amore poi cos'è? Dammi una definizione. Combinazione chimica o è fisica trazione? Mi sai dire tu cos'è? Se ti innamorerai sarà un incrocio di emozioni inevitabile. Non ci sono spiegazioni, non è chiaro neanche a me. Si dice amore quando si accende. Copiata vincente questa tra Giorgia ed Eros Ramazzotti, è inevitabile. Adesso un attimo di pausa, poi torneremo con un altro flashback, un disco che ci può. When I'm far from home, don't call me on the phone.

chiesto torna mentre ero già. Questo è il finale, vai, vai col finale, vai la bella Pausi. Laura Pausini, Non ho mai smesso. Che bella sta canzone, 17:47, sulla radio che si sente e si vede. CRM Happy Radio, questa è On The Road, ancora buona serata, da Roby D'Antoni. I'm so glad you made time to see me. How's life? Tell me how's your family? I haven't seen them in a while. You've been good, busier than ever. With small talk, work and the weather. Your guard is up and I know why. Because the last time you saw me is still burned in the back of your mind. You gave me roses and I left them there to die. December. No, no, no, noi vorremmo andare avanti, non te la prenderà male Taylor Swift, noi vorremmo andare avanti, altro che Back to December, noi vogliamo adesso il bel tempo, speriamo che possa andare via questo brutto tempo. Vieni, di puro amore, a ridarmi la vita, altissimo. Una storia infinita. Quasi mai, quasi mai ho goduto tra le braccia dell'inferno che mi dai. Quasi mai, quasi mai il tuo silenzio uccide un cuore andato in cenere. Quasi mai, quasi mai lascerò per te morire, mai per amore, mai per amore. Guardami, cerco la luce di noi nelle lacrime. Quasi mai, quasi mai, io ti cerco nelle notti e chiedo ai sogni dove sei. Quasi mai, quasi mai, in questa storia andata male io ti ho detto addio. Come mai, come mai, la vendetta che stringi nei pugni è la tua malattia. Lo sai che quasi mai il vero amore può dividerci. Super Rockettara, Gianni Nannini, Mai per amore, pausa, poi torneremo con Kylie Minogue, un disco che ci riporta indietro nel tempo, anche se poi devo parlarvi dei suoi 20... The Road. Quando avrai inverni così da proteggere, quando avrai silenzi così da comprendere. No, se vorrai freddo sciogliersi, saprò attendere. Quando vedrai le tue foglie schiudersi, saprò sorridere. non lo farai. Quando imparerai a non fuggire più e a risplendere. Ah, che canzone questa di Subsonica. E allora, stavo leggendo di questa notizia che riguarda Kylie Minogue, dicevo prima che l'avremmo ospitato, soprattutto prima però avrei parlato di questa cosa strana che lei ha organizzato. Allora, lei voleva mettere, anzi ha deciso di mettere un video riguardante la sua nuova hit, che poi è un rifacimento di un vecchio successo del 92, su internet, però per metterlo ha sfidato un po' i suoi fan su Twitter, rendendoli disponibili i video solo dopo aver ricevuto 25.000 contatti. Sono arrivati, lei ha messo il video, ma le sorprese non finiscono qui. La cantante ha infatti annunciato la sua intenzione di reinterpretare altri successi, altre pietre miliari della sua discografia, e io dopo l'appuntamento con l'informazione uno ve lo regalerò, uno di questi dischi che ha fatto un po' la storia della, di questa bellissima e bravissima cantante. On the road. Flashback. Si è inventato pur di scoprire, perché secondo me poi era un modo per scoprire quanti fans la seguivano. Ebbene, lei si è inventato questo, ha detto metterò il video in rete solo dopo aver ricevuto 25.000 consensi, 25.000 come potremmo dire saluti su internet, e quindi è successo e lei l'ha messo il video. 25.000 contatti, pensate. Poi sono di più, a voglia se sono di più i suoi fan, a voglia se lo sono. 18:08, siamo nella seconda ora insieme, quindi sino alle 19 sarà On The Road su CRM Happy Radio. Seguiteci in streaming, crmhappyradio.it. Questo è il nuovo di Gianluca Grignani, si chiama Un Ciao Dentro Un Addio. Io vado via perché tu non sai a me quel che sei, non l'hai raccontato mai. Ed ora mi è più chiaro che sei tu che giochi con me. E poi vado via perché per bella come sei cambierei un'altra volta idea. E poi l'ingenuo sono io. Dentro un addio. Ma va bene così, me ne vado ora, perché io con te, io mi arrendo. Ma ricorda anche tu, chi ci perde di più, sei tu, perché io non pretendo. Soffrirò, ma che vuoi, prima o poi tutti quanti ci passano, lo sai. E quello che rimane dell'oblio è un ciao dentro un addio. Ma va bene. Sai che quasi mi faccio un assist da solo, no? Gianluca Grignani, perché un ciao dentro un addio mi fa un assist? Ve lo spiego subito. Questa, sapete qual è la sigla, no? Questa è la sigla del TG4. Ebbene, devo parlarvi proprio del direttore del TG4, che probabilmente, a detta sua, Emilio Fede potrebbe anche lasciare la conduzione del TG di Rete 4. Lui dice: a giugno lascerò la direzione del TG4, al mio posto vedrei bene una donna, Saffiria Leccese, Annalisa Spiezie o Benedetta Corbi. Il direttore smentisce la buonuscita milionaria, dice che non è vero, e racconta del suo nuovo progetto, un settimanale di approfondimento su Rete 4 in seconda serata. E poi Fede adesso sogna un'esperienza in Parlamento. Mi è stato proposto più volte, io ho sempre detto no, ma stavolta lo chiederò io a Berlusconi. E spesso Berlusconi mi ha proposto la candidatura in Italia e ho sempre detto di no perché volevo restare al TG4, racconta Fede. in un'intervista alla Zanzara su Rai 24, però a giugno potrei anche lasciare la direzione, glielo chiederò, e non mi dispiacerebbe andare in Parlamento. La candidatura potrebbe entrare nella trattativa per lasciare il TG4, non tratto con Berlusconi, però mi piacerebbe fare un'esperienza in Parlamento, magari insieme a mia moglie che è già senatrice. E qualcuno mi chiede come sta andando questo suo trattato, come sta andando con Berlusconi, vedremo, dice ancora non è avuto forse il coraggio di parlarne. La buona uscita qualcuno glielo ha chiesto, ma quali 7 milioni? La parola milione non esiste, anzi non so se parla più o non li ho mai chiesti. C'è qualcuno che ha messo in giro questa cosa, mi vergognerei in questa situazione del paese a prendere tutti questi soldi. Forse parliamo di un contratto di consulenza 3 anni più altri 2, poi prenderò quello che mi spetta, forse qualcosa in più mi darà l'azienda, sto facendo i conti, ma siamo sotto il milione. Questo lo dice il direttore di Rete 4, quindi Emilio Fede, che probabilmente a giugno potrebbe lasciare il TG4. Avete provato mai a seguire il TG4? I shut the world outside until the lights come on. Maybe the streets are light, maybe the trees are gone. I feel my heart stop beating to my favorite song. Coldplay, Heavy Turned Up is a Waterfall. Spero di aver pronunciato bene. Qua dovrebbe venirmi incontro il mio carissimo amico Ignazio dal Bronx, perché io con l'inglese, sapete, non è che ci vada a nozze. Vabbè, e allora dicevo, oggi forte scossa di terremoto avvertita al nord, il sisma avvertito a Milano, Torino, Genova, magnitudo 4.9 con epicentro tra Parma e Modena, una forte scossa che è stata avvertita poco dopo le 9 a Milano e Torino e Genova nel capoluogo lombardo. Molte persone sono scese in strada, diverse scuole hanno fatto uscire i bambini dalle strutture. La scossa è stata di magnitudo 4.9 della scala Richter e ha avuto l'epicentro. Perché ho detto Richter? Non lo so, forse perché volevo fare il tedesco, invece va bene. Ha avuto l'epicentro nella pianura padana emiliana in provincia di Reggio Emilia. Secondo quanto accertato dall'Istituto di Geofisica, i comuni più vicini all'epicentro sono Poviglio, Brescello e Castel di Sotto. Credo che non ci siano stati feriti, soltanto tanta paura, come capita in questi periodi, in queste occasioni, scusate. Dicono abbiamo avuto molta paura, siamo usciti per strada, non poteva essere altrimenti. Nel veronese invece la violenta scossa è stata nella notte e quindi diverse scosse hanno interessato il nord Italia, sempre. Ma fa paura specialmente la notte. Io quando è stato qua in Sicilia l'ultima volta, che è stato fortissimo, quando ci sono stati un sacco di danni, io l'ho vissuto, ero ancora sveglio, era in piena notte, ero ancora sveglio, ero a letto, stavo seguendo un telefilm, veramente pauroso. Va bene, 18:23 sulla radio che si sente e si vede, CRM Happy Radio, c'è Roby D'Antoni con voi sino alle 19. Quindi ancora una buona mezz'oretta, mezz'ora abbondante da trascorrere insieme, 37 minuti per l'esattezza, i prossimi con Black Box. spero che non possa scaturire in violenza questo blocco dei tir, questa manifestazione da parte dei pescatori, perché anche già anche se già c'è stato qualcosina tra i pescatori e la polizia, scontri, 3 arresti e diversi feriti. Ripresa la protesta dei tir, passerà con gli sconti ai pedaggi, probabilmente questa passerà, vedremo un po'. Tanto gli scaffali dei supermercati sono vuoti, momenti di tensione davanti alla camera tra i manifestanti e le forze dell'ordine, che con manganelle e scudi hanno caricato i pescatori che stavano protestando contro il caro gasolio. Effettivamente, credetemi, non si può andare avanti così. Io vivo quasi quotidianamente questa situazione da parte dei pescatori, anche perché ho tanti amici, mi capita spesso di andare in zona al porto, eccetera eccetera, ed effettivamente è diventato quasi impossibile, specialmente quando ci sono delle giornate che vanno male, col fatto che la benzina costa tantissimo, i ragazzi, i pescatori sono veramente messi alle strette. Cat Perry, si chiama Hot and Cold, ovvero caldo e freddo. We'll be right back. va. E nei sogni di bambino la chitarra era una spada, e chi non ci credeva era un pirata. E la voglia di cantare, e la voglia di volare, forse mi è venuta proprio allora. Forse è stata una pazzia, però è l'unica maniera di dire sempre quello che mi va. Non potrò mai diventare direttore generale delle poste, delle ferrovie. Non potrò mai far carriera nel giornale della sera, anche perché finirei in galera. Mai nessuno mi darà il suo voto per parlare o per decidere del suo futuro. Mia categoria, tutta gente poco seria, di cui non ci si può fidare. Guarda invece che scienziati, che dottori, che avvocati, che folla di ministri e deputati. Pensa che in questo momento, proprio mentre io sto cantando, stanno seriamente lavorando. Per i dubbi e le domande che ti assillano la mente, va da loro e non ti preoccupare. Sono a tua disposizione e sempre senza esitazione loro ti risponderanno. Io faccio solo rock and roll. Se vi conviene, bene. Io più di tanto non posso fare. Gli impresari di partito mi hanno fatto un altro invito e hanno detto che finisce male. Se non vado pure io al raduno generale della grande festa nazionale. Hanno detto che non posso rifiutarmi proprio adesso, che anche a loro devo il mio successo. Che son pazzo ed incosciente, sono un irriconoscente, un sovversivo, un mezzo criminale. Ma che ci volete fare? Non vi sembrerò normale, ma è l'istinto che mi fa volare. Non c'è gioco né finzione, perché l'unica illusione è quella della realtà, della ragione. Però a quelli in malafede, sempre a caccia delle streghe, dico no, non è una cosa seria. E così è se vi pare, ma lasciatemi sfogare, non mettetemi alle strette, oh, con quanto fiato in gola, vi urlerò, non c'è paura, ma che politica, che cultura, sono solo canzonette, non mettetemi alle strette, sono solo canzonette. Questo è il Bennato che ci piace. Edoardo Bennato dal passato, sono solo canzonette. 18:39, dobbiamo fare gli auguri oggi a Michel Hutzinger, che di anni ne compie 35, anche se poi effettivamente sembra una ventenne bellissima. È stata ritratta durante la serata con Tommaso Trussardi. Michel Hutzinger ha compiuto 35 anni, bellissima e splendente, con questo total look black. Showgirl che di anni, dicevo prima, nelle dimostramenti ha cenato, non poteva essere altrimenti, al ristorante milanese di proprietà della famiglia Trussardi. Auguri Utzenkego, ecco, ma poi fanno morire l'inviato Militello qua, dice mi saluti e greggio la Utzinger. Ne escono fuori, guarda, delle cose veramente incredibili. Poi invece non devo raccontare di questo momento black del soldato Jane, Demi Moore, che è crollata pochi mesi dalla fine del suo matrimonio con l'attore Ashton Kutcher. I suoi nervi hanno ceduto ed è stata ricoverata in una clinica di Los Angeles a causa di stress e affaticamento. Speriamo possa riprendersi pimpante più che mai, come l'abbiamo vista nell'interpretare il soldato Jane. Salvate il soldato Jane. Faccio ballare un po', va, visto che fa freddo. Avicii Levels. Mamma mia come vola il tempo, anche oggi volate via le due ore, davvero incredibile. Continuiamo un'altra vostra segnalazione, che è arrivata tramite il nostro profilo Facebook. Angela, che ci ha richiesto questa canzone bellissima. Senti che atmosfera che crea. Tornerai. Ogni tanto